Q10, beh, tutti addormentati siete. Hola, hola, oh. Q10, cucù. Che c'è in ascolto, cambio. Chi è, chi è? Non stai uscendo, chi sei? Come non sto uscendo? Quello col bip, praticamente sento la portante come se parlasse, si sente che parla e stacca la portante, poi riprende e poi ristacca. Ero io, ero. E sentivo un bip, sentivo pi, ah, l'hai tolto, vabbè. Ma questo sentivi? Sì, un bip molto acuto, diverso dai soliti, dai. Perché il mio è logico che è diverso. E beh, oggi tutto tace. E tutto tace, non c'è entrato nessuno, manco mamma mia. L'ho chiamato anche prima, ho messo il bip per attirare, ho detto adesso premo, vediamo se c'è qualcuno a pizzo. Poi io mi devo fare due prove, hai visto quelle punte ieri? Ehi. E mi devo tarare un po' tutto. Oggi non era male, rischiava di piovere però... Alla fine non ho piovuto, dai. Cosa? Due gocce fa e poi si ferma. Le gocce cadono, ma che fa? E infatti. Che inizierà il 7 luglio. Oh signor! Si chiuderà il 9 settembre. Andrea. E così io stavo facendo così, stavo preparando un po' di roba così da utilizzare. Poi vabbè, la prossima settimana mi arriva quell'adattatore in modo da poter utilizzare più ottiche diverse, capito? Poi vediamo, dai, però poi alla fine uno non sa cosa usare, se usare il normale mirino, il red dot o il cannocchialetto. Io ho usato l'M4 col mirino olografico. Sì, praticamente è un mirino olografico, sì, un red dot, cioè vedi questi punti luminosi campati in aria, capito? È pratico, però ho detto tra noi, a me per tirare per svago, cioè mi piace più usare con tutto, le mire originali, quella attacca di mira tipo pistola, senza mettere menate, cose, perché sennò poi sto, metti e togli, lo togli da uno, lo metti sull'altro, lo devi ritarare, capito? Allora le mire originali non hanno bisogno di batterie, eccetera, non ha bisogno di appoggio. E comunque quello della Gamo, quel cannocchiale della Gamo 4x32 era un vero giocattolo, è una schifezza che viene male a dirlo, proprio cinesatte come qualità ottica, perché ai lati vedi tutte le aberrazioni cromatiche. No, già funziona, dico, riesci a mirare benissimo, a tararlo bene anche, però si vede che non è ottica tipo Tasco, tipo Bushnell, vabbè, grazie. E io ne ho una sulla 22 che è portentosa. La marca te la ricordi? Dovrei vedere. Comunque per 42 c'ha lo zoom, guarda, è bellissimo. Sì, naturalmente, aspetta che metto lo squelcio al minimo. Come? No, ho messo lo squelcio al minimo, se no è un casino. Cosa ti volevo dire in aggiunta? Porcaccia la vaccaccia, non mi viene. No, lo zoom è bello, però per mettere zoom spinto devi poggiarla l'arma, se no ti balla un bel l'immagine, ti treme un bel immagine. Poi io non ho le mani particolarmente ferme, quindi perciò mi scoccia a me tirare il cannocchialetto e mi disturba la visuale, capito? Se non sei perfettamente mani ferme, immobile, mi buria. Lo so. Perché ci vuole un piano dove appoggiare l'arma e in più ci vuole quel clicco che ti ho detto, quello trapezoidale. Anzi, pensa che io per organizzarmi meglio mi sto portando il tavolinetto. Il tavolinetto con le sedie, quello tipo campeggio pieghevole, no? Che diventa una valigetta. Così poggi tutto, fai con calma, poggi, che ne so, cacciaviti se ti servono. Io voglio stare comodo, Non è che devo fare roba campata in aria, no? Anche al poligono noi eravamo comodi, eravamo seduti e sparevamo così, con l'appoggio. Senza appoggio come fai con l'ottica? Bisogna essere appoggiato. E magari sei un 2x ancora un 2,5x, però col 4x, oddio, un po' così, a me non piace, dai. E poi che altro? Ho tolto il bip, vabbè, perché io lo sento anch'io quando lo metto, quindi certo mi ubriaca. No, io lo tolgo sempre, non ne uso mai. Natalia, a proposito, ieri praticamente stanotte non ho dormito per guardarmi i video, le recensioni e tutto quello che si può sapere su quel 3009 con la scheda del 6009 nuovo, che poi è più simile al 7009 V, quella versione V, quella scheda piccola, e ti dirò che è tanta roba, però naturalmente tu hai un apparecchio tipo il tuo, no? Attuale, con le limitazioni di un 3009, cioè lì c'è tante funzioni, tanta roba, però con l'interfaccia dal 3009 non le puoi attivare. E uno dice, ma è chiaro che se uno vuole usare tutto è bene, compreso il contatore di frequenza, ci piglia il 6009, è chiaro. Il bello di quello è che praticamente hai la bontà del 6009 ma con l'aspetto del 3009, in poche parole, e ovviamente lo usi come 3009. D'altronde il 3009 il frequenzimetro non ce l'ha, lo stesso glielo devi mettere tu esterno se lo vuoi. Comunque se bene in radio, l'FM non senti la gente strappata come la sento io col 3009, l'FM è perfetta in ascolto, non in ricezione. L'SSB non ne parliamo, molto bella, rilassante, molto caldo il tono anche. Molto interessante Natalì, molto. Il capezzo, vediamo se riusciamo a aggiustare quello là, che così è omologato, se no c'ho quel polmar, devo tenere quello ma non andiamo a carruccio. Ascolta, mi dovresti dire, se te lo ricordi o se ce l'hai aperto, la versione di quella scheda madre, la versione della IPT 3006, potrebbe essere una 14, una 14 o una 13 addirittura. Se lo sapessi ti darei lo schema giusto di una qualità decente, dai, perché bene o male o su Roger K o su tutti i siti online trovi anche roba molto molto dettagliata. Naturalmente certi schemi non sono perfetti come quello ultimo che ti ho dato, che è fatto al computer, ma sono fatti, sembra roba presa da roba fatta a mano, mi hai capito? Come erano i vecchi schemi una volta, tutta più rustica come tutto. Comunque l'importante è che poi si trovi il pezzo, perché se uno ha i componenti classici e anche con lo schema poi non trova il pezzo, allora tanto vale prendere la stessa roba moderna SMD, tanto non aggiusti quello e non aggiusti l'altro. Sì, infatti, non lo schema l'ha buscato, uno schema francese, fatto addirittura la macchina da scrivere, bello fatto, proprio il manuale di servizi ha trovato. Corino. Luca. Ciao. Vai. Ma c'è l'eco, stai ripetendo tu? No, è al minimo l'eco. No, vai, fatto. Sì, niente di che Luca, dai, tanto adesso devo fare una commissione e quindi fra un po' staccherò. Va bene Natalia, sono contento, però il pezzo si capisce già che pezzo serve. Se l'ha passato nel computer, lo schema sta controllando. Oggi tu infissi a fabbrica, usai e niente. Se avesse avuto quello strumento l'avrebbe già trovato il guasto. Ma secondo te cosa può essere? Un transistor? Una resistenza, spero non sia un integrato, se è un integrato, cacchio. È un integrato e un condensatore, si tratta di sapere quale. Sono rimasto stupito, mia Natalì, che il tuo non era nemmeno con i MOSFET, cioè hanno spacciato la versione vecchia come le ultime. D'altronde solo quello trovavi Natalì, anzi sai cosa ha detto un radiatore, CB radiatore credo, che praticamente gli ultimi 3009 a MOSFET, quindi i recenti, li vendeva la PNI Romania, che mette anche i baracchini in vendita su Amazon, quindi PNI Romania fine 2021 trovavi ancora i 3009, ne ha presi due, 3009 al MOSFET, come quello che ho io. E poi spariti, perché componenti di quel tipo non ne faranno più e stanno. Comunque dice che questa è stata, Natalì, un'impresa, un'idea, una furbata commerciale, perché tutti volevano il 3009, tutti volevano il 3009, non si trovava più. Allora loro hanno pensato di usare chassis di vecchie radio, che produrli non è un problema, con la scheda nuova, capito? E accontentare un po' tutti. È stato un 3009, ti dirò di più Natalì, la versione che trovi si chiama Superstar 3009 Multi, è omologato ed è multistandard, cioè se tu ottieni omologato c'hai 40 normali, c'ha la banda tedesca quindi con in FM anche 40 sotto, ha la banda inglese dei in FM che usano in Inghilterra, insomma lo puoi usare in quasi tutti gli stati d'Europa, è omologato, quindi te lo puoi portare come quando vuoi in macchina, e ovviamente con una piccola modifica e o volendo anche con il software lo puoi fare come il tuo, capito? e volendo personalizzare il canale ovviamente, come ho fatto io con uno dei miei. Il telefono, un attimo. Vai. Luca, Luca. Break. Gianni, vai. Yeah, buonasera a tutti, non so chi ci sia. Ciao Marco, dove siete il tanker? Perché presto, pensavo non ci fosse nessuno, ho provato a accendere, ho visto che state parlando, quindi ho detto non sono andati a prendersi il sole. Io ieri notte sono uscito e oggi sono stato a riposo. E io già. Sì, c'è Natalino, adesso al telefono con Paoletto. C'era anche Luca che però sta facendo roba. Vai, viene, entra, saluta e sempre in apparato. Sta sempre creando. Averla l'inventiva che ha lui. Già, gli diceva Natalino, mi stavo dando un'occhiata a quel 3009. Ed è interessante dopo tutto, eh. E Marco, faccio... Come già? Ho fatto un pescerino. Sì, no, perché tuttora ogni tanto hai delle scarichette parlando, è come che il PTT non venisse premuto bene o facesse un po' di scariche. E non solo, dice, questa è una furbata commerciale, no? Come ha detto Natalino, perché tutti volevano il 3009, però con i pezzi antichi non c'è più, allora hanno messo un'ottima scheda, ho preso un Tatale su uno chassis vecchio, però dice, se fossero ancora più furbi rifarebbero il Saturn, i Galaxy e quella roba lì, quelli grandi, con la scheda moderna, quindi tu ti troveresti a riavere, per dire chi lo vuol comprare, un bel Saturn, un Galaxy, quello che vuoi, con la scheda moderna, con tutte le magnificenze della scheda moderna, con l'autoascolto, con l'eco, con la possibilità di operare quasi a sintonia continua, un saccaccio di roba già. E conta che il Saturn poi dentro è vuoto praticamente, ci puoi aggiungere linea retti interni e tutto quello che ti viene in mente. Quella potrebbe essere una cosa molto ma molto interessante. Insomma, quanto te lo farebbero pagare, Marco? Già questo qua costava a Vichiera sulle 740 euro. Lo so già, però d'altronde, cioè, se tu compravi un Petrus, un Saturn, un Galaxy nuovo di negozio, lo pagavi una barca di quattrini, e così semmai faranno, magari provano a fare un modello, poi come va, semmai faranno un modello con lo chassis del Saturn e simili, costerà lo stesso un saccaccio di quattrini. Ma vuoi mettere la bellezza, poi sai, adesso questi c'hanno di serie la scheda DNR e quindi puoi attenuare un po' tutta la friggitrice di quando c'è propagazione o comunque QRM o QRN. È interessante la cosa, molto. Io mi accontenterei del 3009. Guarda, l'importante è che esca limpido di modulazione, cosa che già fa, perché ho letto le recensioni su Roger K. E poi che dire, vabbè, da provare. Naturalmente dice che prima c'era una versione del software che era fallata, se tu lo programmavi succedeva casino, adesso invece c'è il software nuovo, dovrebbe andare bene, il cavetto è lo stesso del 7009/9009. Tanta roba, dai. Questo quindi ha bisogno di aggiornamenti se c'è il software. No, software è quello che tu metti al computer per programmarlo. No, quello è unico, cioè quello che c'è dentro è il firmware, ma non è modificabile in teoria. Ah, ecco, no, ho capito che c'è il software, l'apparecchio. Se hai letto le recensioni, se hanno dato delle cose positive, fai bene se te lo prendi, se ti imbiardi, ma... Una cosa che non gli hanno messo, e qualcuno ha detto è quasi imperdonabile, è quell'attacco particolare che tu conosci, che abbiamo noi, che avevamo nel 2009, il frequenzimetro esterno, vero frequenzimetro, non le hanno messo, quello è una mancanza grave per qualcuno. Perché sai, se ti dicono la frequenza quando fai DX, tu devi sapere dove andare, cioè... Vabbè, e poi i canali alfa non li puoi attivare, non con quell'interfaccia lì del 3009, certe cose non le puoi fare, cioè te le devi tenere come un 3009, come se avessi un 3009, no, 3009 di tipo nostro, cioè senza il più 10 kHz, capito? C'è mezzi canali, sì, con 0 finale, ma i 10 kHz no, però vabbè. ma va bene, il 3009 non me l'ha fatto. Adesso sto modulando con quello, sto modulando col 3009 e col microfono Midland, quello che avevo preso. Che avevo preso la Midland. Credevo fosse il Galaxy, o come si chiama, quello che usi in macchina. No, no, questo qua è il 3009, è il 3009 col microfono della Midland, quello che avevo preso proprio alla Midland, alla casa costruttrice. Sì, però come dicevamo ieri già comunque, mentre il 48, l'Alan 48 antico, no, con i componenti classici, quando hanno fatto il primo BSX era una gran porcata, era, non era di carne e pesce, invece qua stanno mettendo già una scheda, per quanto sia la nuova versione, abbastanza buona, buona modulazione, buona ricezione, buon tutto, buona dotazione, eccetera, è già diverso il discorso. Poi è omologato, nasce omologato e multistandard pure. Così di colpo. Già, non sei uscito quasi, ho capito solo, quasi di colpo. Ma anche questo qua sta difetto adesso, che stanno rompendo le scatole questi microfoni. Intanto ne hanno una, raga. Adesso premo forte, vediamo un po' se difetto. No, adesso sei uscito e ho capito dove devi ripetere, dai. Ho detto, non lo dire a me che il BSX mi è durato da Natale a Santo Stefano, praticamente una settimana e poi non è acceso più. Figurati. Sì, guarda, la primissima versione, cioè il passaggio dai componenti classici alla componenti classici al coso è stato drammatico. Poi forse la versione ultima è migliore. Poi vabbè, questi componenti piccoli non li può vedere nessuno perché non puoi stare troppo a smanettare, cioè devi avere il microscopio, la mano ferma, la stazione saldante, devi fare tutto tipo chirurgo, capito? Dice, non è che non si possano aggiustare, è che nessuno si appenta, non ne hanno voglia le persone. Però vedi, sarebbe stato interessante che facessero i baracchini come i computer a schede. Tutta scheda, scheda audio, in modo che se si rovina una sola sezione, o la modulazione, o la scheda audio di ricezione, o lo stadio finale, tu cambiavi solo la scheda e non stavi a saldare nulla, capito? Gli HF sono così. Vabbè, se diversi prezzi. E comunque conta una cosa, che c'è sempre comunque una scheda madre, anche se lo facessero, che quella, cioè, se cambiare quella sarebbe cambiare tutto l'apparato. Ma ieri com'è che l'abbiamo beccato sto 3009? Ho guardato online per vedere se ancora c'era quel venditore spagnolo Futibeciu. E ho visto 3009-2023, ho detto, oh balle. E poi era quella. A proposito, questo qua, nuova versione, è importato per l'Europa dalla Piernas spagnola, come i nostri 3009. E poi in Italia, diciamo in Italia non c'è un importatore ufficiale, ma se lo stanno facendo arrivare i negozi tipo Technology Shop, che l'ha esaurito, forse se lo farà arrivare Media Globe appena potrà. Ma comunque quella MOSFET è una modifica che hanno fatto al mio, praticamente. È una modifica, se voglio, ma lo faccio a MOSFET quello mio. Però non so se sia così semplice, comunque bisogna tarare poi quelle piccole tarature di finali, non so come sia nata lì, la piedinatura non so se sia la stessa, io di queste cose non so niente, quindi non metto parola. Quello lì già lo so fare, quella persona che ti sto dicendo. Ah vabbè, lui sì. No, perché qualcuno, anche leggevo sui forum, sprovveduto, credeva che bastasse dissaldare i finali, mettere i nuovi e chiudere l'apparato. No, ammesso che i piedini siano quelli, ammesso che poi non devi ritardare tutto lo stadio finale, le tensioni ai piedini, non so niente, ho letto solo qualcosa del genere. Cioè, vanno fatte le tarature anche quando cambi lo stesso finale dell'apparato, capito? Poi i finali devono lavorare belli accoppiati, non uno che pompa bene e l'altro che pompa male o non pompa. Vuole modificato l'apparato, è una modifica che hanno fatto. Prima quelli che sono a MOSFET erano col 1969, adesso ci vuole il 520. Sì, però guarda, la circuitazione un pochino cambia, ecco, la vicino ai finali. Vabbè, diversa la scheda, tali anche, cioè, c'ha piccole migliorie la scheda. Comunque hanno detto tutti, sui forum vari, che i 3009 analogici, stavo dicendo, cioè i 3009 componenti classici, l'ultima versione era peggiore dei vecchi 3009. In sé una cosa peggiore, tipo saldature fredde, ogni tanto dovevi risaldare qualcosa, oppure piste troppo sottili, oppure allineamenti di fabbrica inesistenti, cioè te lo buttavano come veniva, te lo buttavano in vendita ed era magari tutto da ritarare, capito? Cioè, i vecchi 3009 erano più fatti meglio, più accurati, più tarati, più saldature migliori, eccetera, eccetera. E vabbè, già ne riprendi. Ehi. Tutto da provare, Marco, perché tra il dire e il fare ci passa il mare. Io l'avrei prima testato e qui avrei parlato, perché bisogna vedere se, come dico. Quelli che l'hanno recensito, vabbè, su YouTube ci sono quelli che magari li vendono, quindi quelli chiedi all'osso se il vino è buono, lui ti dice il vino è buono, però ci sono dei ragazzi più di uno che li ha comprati, per curiosità li ha smanettati in ogni modo, e dice che come omologato multistandard non è male. E poi conta una cosa, è un omologato multistandard che ha tutti i modi di emissione, perché multistandard hanno solo 10.000, però sono sempre MFM. Questo è uno dei pochi che ha la MFM e SSD. Ed è omologato multistandard, quindi usare perché le alternative sono o l'Albrecht 5890 EU che ha quello strumento per trovare i guasti, oppure l'altro qual era? C'era anche un altro che era multistandard con la SSD pure, e mi viene la sigla però quello strumento pochini, un migliaio di euro in due pezzi mi c'era, ma ce l'hai capito nulla, mi siete sovrappopolati. Ho detto che si sta costruendo quello strumento da 400 euro, quella persona là, se si fa anche le schede lui madri prende ce le me, e le fa lui, figurati, problemi c'ha, è diplomato in elettronica navale addirittura, dove lavorava anche da Murruzzu per l'elettronica delle navi, delle barche. E adesso dove lavora? Con il suo? Ma non ne fa più baracchini, lui fa informatica, assistenza a distanza, capito? Ho capito, avanti va. Allora, vado? Ok, allora dicevano che questo 3009 nuovo è uno dei pochi multistandard con la SSB, perché tutti gli altri multistandard sono solo MFM. Questo, guarda, multistandard con la SSB c'è solo l'Albrecht 5890 EU che ha Carlo, e poi il McKinley, quello omologato, che è multistandard, e poi questo nuovo, poi gli altri non viene multistandard, capito? Se lo facessero il Galaxy lo prenderei, ma mi piaceva quello che avevano fatto, quel prototipo che avevano fatto quei due fratelli o cosa erano che lavoravano prima, non mi ricordo se era alla Sigma. Ma quella è magia già, cioè quello non è un normale baracchino, quello è magia, tutto quello che gli hanno messo dentro, le schede di controllo, il software. Guarda, l'elenco dei pezzi era infinito, se tu guardavi avevano messo sul tavolo tutti i componenti, il display per vedere il waterfall, guarda, spettacolare quello, però quello se lo dovessero vendere credo che lo pagheresti quanto, roba di 2000 euro, quanto un HFM. Analizzatore di spettro. Sì, facevano della manovra di cui non ho capito la funzione, se era un accordatore interno oppure se era altra roba. Cosa non c'era dentro quella radio? Era bellissimo però. A me piaceva molto. E mi ha subito imporrato come l'ho visto. Te l'avevo anche detto, se esce me lo compro, me ne frega. Solo che a farlo loro l'hanno fatto artigianalmente, no? A rifarne un altro ci vuole un sacco di tempo, ecco perché se anche lo dovessero vendere i costi sarebbero proibitivi, tipo secondo me 2000 euro non meno. Fai prima a prenderti un effetti 3000, almeno c'hai tutto e magari lo paghi anche di meno. l'FT 3000, ia. Solo che là, sai, l'altro è più baracchino, più con i controlli classici, no, mic gain, RF gain, più vabbè, tutte le cose aggiunte. L'altro è proprio HF, magari un po' più ostico l'utilizzo. Boh. E poi per sapere come si irradi. Sì, già escono bene qui. C'è quell'amico nostro che c'ha uno di quella serie lì ed esce bene. E dentro il menu devi entrare in tutti quegli apparecchi lì per poter parlare in 27, se no non c'è nulla da fare. Buoni tutti rigurati, è bello il 7003 che è piccolino, vedi, cazzo, quello dice che va benissimo, non bene, no, benissimo il 7003 della Icom. Ma a me mi piace grande, mi piace la stazione base, lì. E io mi voglio fare tutto quanto a stazione base qua. E eliminare magari gli apparecchi, quelli da vettura, e mettervi tutte stazioni base. E Lulu Gallai, già il 1200 è grande, cazzo, quanto è un Galaxy. Vivo Lulu, vivo papuni apparecchi del genere. Figurati 3000, 5000, cazzo. E io già glielo faccio il posto, già ce l'ho, ce l'ho. Tolgo un baracchino e ci metto questo. Ma non ci sta, mica sono grandi, mi. Cazzo, se ci sta il Galaxy, non ci sta. A costo di mettere un tavolinetto con le rotelle, mi spostabile. E lo metto sopra, e lo metto sopra al mobile. No, comunque, se proprio uno deve spendere, cioè uno dice TP di 3000 c'ha tutto, però la soddisfazione di avere un apparecchio simile 27 con lo stesso chassis, ma con quel po' di roba, e quello è un pezzo quasi unico. Almeno l'esemplare, se uno è unico. Se dovessero rifarlo e venderlo, boh, non ci avrebbero la lista di gente, mi lo sai, che pur di avere un oggetto esclusivo farebbero tipo un'asta, mia, che offre di più. Sì, ma sarebbero costi proibitivi, sarebbero. Guarda, ti prendi un FT 3000 e lo paghi anche di meno di un apparecchio del genere, come state dicendo voi, e ci va lo stesso da tutte le parti. C'è il 1200 che è bellissimo, c'è l'analizzatore di spettro a vero, non giocattolo, proprio l'analizzatore di spettro, c'ha, ti legge il CW, il codificatore di CW, c'ha, tu invece di sentire la nota leggi direttamente quello che scrivo, che dicono. Ma l'FT 3000 non ha l'eco. E si può mettere anche quello. Basta applicare il microfono che abbia l'eco e fate il gioco. Sì, infatti, vabbè, era una battuta per dire. No, però vedi, l'FT 3000 sì, ce l'hai, però è un apparecchio di serie, c'ha tutto, ma non so se posso operare contemporaneamente in HF, in VHF, o se devi usare una banda per volta. E l'altra non può ascoltare, non so se abbia un VF o secondario, però non l'ho mai provato, né visto, né niente. Però vedi, non è un oggetto esclusivo, è un oggetto che esce di serie, invece l'altro è un oggetto esclusivo proprio per intenditori, tipo Gianni, che se lo comprerebbe a costo di spendere due pensioni. È un giosso, ma va solo in 27, invece con quell'altro c'è la cosa che vai dappertutto. Sì, vai dappertutto e non vai da nessuna parte, perché più che ascoltare non puoi fare altro. Cioè, o uno c'ha la patente, davvero ce l'usa a pieno il 3000, se no per, cioè, avere l'FT 3000 per parlare in 27 mi sembra proprio una presa per il QSO. Infatti, se non hai la patente non te ne devi comprare di quegli apparecchi lì, perché non li puoi usare, semplice. Io perché ho abbandonato tutto e c'ho solo questo apparecchio in 27, per quel motivo lì, adesso come mi danno l'altro mi vendo pure l'altro, e così mi riporto in dinamico, mi rimango io. 747, come va? Ma linearetto. L'FT. Ah, il piccolino, no, non serve un cacchio. Come un 140, Stavano vendendo 300 euro. Sì, ma è come un baracchinetto, no. Non si fa nulla. 140 non è da buttare, no? Io sento Eugenio che non ho mai sentito così forte. Con 140 esce un bebè. Sì, ma è un baracchinetto, rumoroso, bigliagoppi, non si fa un cazzo. È meglio l'apparecchio che sto usando io adesso che il 140. E il 440 è meglio. Sì, un abisso, beh, specialmente se come te chi sui fabio io, con tutti i filtri, tutto quanto. C'è un abisso. Ma il fatto che dicono che sono difettosi quelli lì, è quello che ti blocca, capito? Se ti fanno il difetto poi non c'è nessuno che te li aggiunga. Ecco perché non ne devi prendere quelli, perché sono apparecchi che hanno 50 anni. Cosa cazzo ti pigli un apparecchio che ha 50 anni? Ti pigli un 7003 della Icom, è piccolino, bello, gatto, altro è baracchino, quello lì va a tutte le parti pure, oltre che se bene in 27, un 1200, un effetti 1200, allora chi su va tutto. Il 1200 ed è una belva, c'hanno DSP, c'hanno l'analizzatore di spettro, ma non giocattolo, no, l'analizzatore di spettro a vero, mi vedo uno che là e ti rubo fa vedere pure, capito? C'hanno tante cose che i baracchini non hanno. E lo so, ma come hai detto tu non si possono ottenere, se abbigliano i luci. Se esce il Galaxy nuovo, quello lì Marco, facciamo a gara. Sì, questa è un'ipotesi che ha fatto quel ragazzo che stava facendo la recensione, dice questo 3009 esiste solo perché è una trovata commerciale, no? Per venire incontro a chi voleva un 3009 col design classico, no? E dice se fossero furbi potrebbero tentare di fare un Galaxy o Saturn o Petrus, come lo vuoi chiamare, con quella scheda nuova e avresti comunque un apparato, una stazione base grande, funzionante bene tranne qualche difetto di fabbrica che può sempre uscire. E vabbè, lì è nuovo o non nuovo, il difetto ci può essere sempre di fabbrica. E vabbè, si vedrà, dai. No, il Petrus è diverso, è Marco, dal Galaxy. Non c'ha frequenzimetro il Petrus. Il Galaxy è il più completo che c'è. Ah, ok. Forse era i più vecchi, il Petrus era quelli più antichi, dai. Le versioni più economiche, dai. Il Turbo era il più completo, ovvero Galaxy Turbo. No, il mio non è il Turbo. Il mio è il Turbo. Il Turbo lo faccio diventare io quando voglio. No, ma allora, se non ricordo male... no, adesso non erano troppe le versioni, io mi ricordo c'era color acciaio, c'era color bronzo, c'era giallino oro, c'era nero, di tutti i colori hanno fatto, e ognuno aveva il suo nome, qualcuno aveva il frequenzimetro e qualcuno no, però il più completo qual era? Il Turbo, che aveva più roba? Ma non mi piaceva come estetica, mi piace più questo come estetica. Il Turbo aveva i tastini, no? Non mi piaceva davanti com'era. Poi c'era la 500, quello ce l'aveva, la buonanima di Silvestro, e quello ci va con 100 watt lo stesso, e era come il Galaxy, ci aveva frequenzimetro e tutto quanto, e praticamente ci va con 100 watt, che poi l'ha avuto anche, come si chiama, Sandro Tigre, l'ha avuto, quello lì. Ci va bene. Io volevo chiedere, voi che siete lo stesso dagli anni 80, forse anche prima in frequenza, voi l'avete mai conosciuto il Superstar 2000? Era un veicolare tipo il 360, una cosa del genere, FM, o il 3009? No, il 2000 non l'ho mai visto, sinceramente. Io avevo l'Egin, quinto che andava così bene, infatti lo sto cercando, se lo trovo me lo riprendo. L'Egin quinto con le Turner più 2, cazzo, andava che una bomba. Però se lo trovi te lo devi fare tutto marrone, tutto è color cacca. No, è già nero quello lì, marrone, già lo sai, a me il marrone e il verde, né per i vestiti né per nulla, non mi piace. Ma quegli apparecchi sono tutti roba vecchia. Il Galaxy Saturn Echo sarà anche un bel apparecchio, ma ha problemi di alimentazione. Se ti si fa un'alimentazione è un casotto. Portantina c'è o avete parlato in due? Sì, avremmo parlato in due sicuramente, perché già ne avrà premuto sopra di me. Avete riparlato in due, è passato l'antalino, vai Gianni. Io sono con un apparecchietto piccolo. No, non stavamo parlando in due, c'era una portata. Sì, ancora con le portanti siamo rimasti, siamo guattrugliati con il burro abortante. Oh no, forse qualcuno che chiamava, ma non, forse non sta uscendo in radio. Chi vuole entrare avanti? Niente da fare. Allora, sto guardando questo Superstar 2000. Sai cosa assomiglia già? Infatti la scheda è la stessa di... tipo Multinode 2, tipo l'LMS200, tipo il Legging Quinto, quelle schede lì. O quell'altro nome, aspetta come si chiamava, che aveva il Tristar 848, ecco a cosa somiglia. A me l'LMS200 mi piaceva un bel, ma solo il fatto che era marrone, l'avrei dovuto riverniciare, Marco. Però mi piaceva per le manopole, perché c'aveva i canali di continuo, sino a 100, al numero 100 continuavano i canali, andavi dall'1 al 100 così, tranquillamente. Era bello per quello. L'unica cosa che bisognava fare è dare una verniciata. Ah, poi vabbè, dove volevo arrivare? Questo Superstar 2000, vabbè, non è troppo simile, sì, ricorda il 3009, non ha la scheda IPT3006, ha la scheda Cybernet, quelle dei Multimode, in quinto, tutta quella roba lì, era quella scheda che prendeva abbattimento e splatter a non finire. Sì, infatti, il Multimode non ne servia uno. Uno che uno, come pareti, bigliavani. Io ho avuto il Multimode 3, sì, a parte tutti quegli apparati comunque prendevano battimento, però per il resto era completo, aveva tante cose, potevi abbassare la potenza, potevi escludere il beeper, i canali alfa, il fine, il coars, le bande laterali, le FM, cioè per l'epoca erano molto completi, però i colpi che prendevano, tutti erano fatti così, proprio quella scheda era così, o non aveva filtri, cosa ne so. Vabbè. Ne avevo uno che era una bestia in trasmissione, però in ricezione pigliava colpi di l'altro mondo, l'ultimo dei tre migliore avevo. Usciva come un chivo di scia che si va più via. Usciva fortissimo, era una belva. Ma non è quello che va a Falcone? No, l'ultimo dei tre io avevo. Falcone c'aveva il Viking 2, sempre la stessa minestra, Emmy. Non solo, Paoletta ha avuto il Viking 2 AMFM, piccolino, 160 canali, 80 sopra, 80 sotto, e ha avuto il Concorde 2 che era con 120 canali tutti sopra, cioè dall'1 al 120, e le bande laterali anche. Sembra che Paoletta ci ha facendo tutti in base, dovunque non usciva una telefonata. Lo stavo dicendo a Natalino, Paoletto, molti anche camionisti, dice dovunque sia nel Nord Sardegna riesco a sentirlo e altri sassari non arrivano. Perché lui era la zona che aveva, che era libera da tutte le parti, capito? Come Franco per esempio, Franco California, c'è una zona che è invidiabile. Perché mascherato lo stesso, non l'ha sentito di Spagna, è andato di Spagna a casa, l'ha sentito lì a Paoletto. È andato in Spagna, a cosa? In Corsica per caso era. Perché era libero da tutte le parti, era la zona che aveva buona, lo sentivano da tutte le parti a questo qui. Cazzo, quelli che non vuoi sentire li senti, quelli che vuoi sentire non li senti. Ah, chi era che era andato in Spagna o in Corsica, lo sentiva? Mascherata. Non era Sandro Tigre, era in Barra Pesante, no, può essere. No, Sandro Tigre in Barra Pesante non è un primo, faceva un furgone. Magari era il furgone, adesso non mi ricordo se era lui, però in Corsica mi pare un giorno riuscivate a comunicare o sentivano lui, o non mi ricordo com'era la storia, vabbè. Ma lui arrivava da tutte le parti, poi con un vocione proprio forte. Soprattutto soprattutto quando gridavami, proprio andava di corde vocali piene, mi entrava in coppia. E non te lo prendi il microfono di Falcone? Tutto sputacchia. Allora, sai che una notte che stava schiattando, siamo passati nella via che costeggia la sua via, no, all'angolo lì. Ci siamo fermati un attimo, aperti i finestrini la notte, e si sentiva urlare fin lì, davanti all'ingresso di Coso, già capito, la via che affianca, la che passa per la ferrovia lì, senza entrare nel viottolo suo, si sentivano le urla da lì, conta che era estate, probabilmente aveva anche la finestra aperta. Regione Gesù Giuseppe Mania. Il Piero Drago, andate dal pederasta, Regione Gesù Giuseppe Maria, solo per appuntamento, telefonate 23 40 81. Dice, e poi aggiungeva, se non c'è lui già c'è quella vacca della madre. Ah, no, quello no, passare. Cioè, in tempi moderni non esisterebbe una cosa del genere, partirebbero denunce a nastro, però all'epoca non si faceva. Adesso solo perché ha detto quello, vengo lì e ne sento le mutande a Italia, hai capito? E poi gli dice a Barpiero, dice, parla bene che potresti essere il figlio bastardo mio. Era romana, mi pare la madre, no? Eia, eia, eia. Ma che sta a dire? Sei un gran maleducato. Piccolo delinquente. E da poi erano amici di Rufradetto, mi. Erano. Grazie. Vino Ottavio che conosceva Diego, andavano a circolo assieme al Bocciuffilo, dimmi tu, quindi si conoscevano. Survi a Paletto, Piero, gliele diceva in tutti i colori. Una volta gli ho detto pure cosa io, che Castagnetti gli venne l'infarto di quanto l'ha fatto arrabbiare. Che poi non sai che cosa mi dava cosa, perché Piero era tutto calmo, io era bravo, ho fatto le allette, lui si incazzava come un Buddha, vai mangiate un po' di brodino di marmo, ho fatto la fare la fatta. E allora, di tutti i colori gliele diceva, una volta a casa gli ho detto cosa io a Piero, perché l'aveva fatta girare come un Buddha, ahi tu venne l'infarto tra me e me a giudizio. Cata invece manco per le scatole, è venuto a me l'infarto e a lui no. Lui era destrato a incazzarsi, si incazzava un po' con tutti, poi quando stavano nei canali tutti quanti giravano, ci andavano un altro canale, lo sovramodulavano, andavano all'altro canale e lui sempre parlava, io giravo, lui sempre parlava, non aveva ancora mollato. E una volta mi stavo parlando con Adriano, con il mio vicino di casa, quando abitava là in via Sorso, a un certo punto entra Falcone, entra Ania, e cosa gli ha detto Adriano, gli ha detto, dimmi Paolo cosa c'è, non ti parlare con quello che è froscio, c'è a me, e io lo difendivo, te lo immagini. Allora, purtroppo Paoletto era velenoso di lingua, cioè Modigliani lo portava qua, lo portava alle partite, eccetera, e poi come gli girava le spalle, Paoletto diceva, perché Modigliani qua, uno stronzo, la moglie qua, là, cioè più lo trattavi bene, più te ne diceva dietro, e allora poi giustamente veniva abbandonato. Ma gliene facevano, gli hanno messo tutta la schiuma, non so se ce l'hai tu il filmato, quando hanno giocato a pallone gli hanno messo tutta la schiuma in testa, in faccia, tutte le parti, e la volta che gli hanno fatto mangiare il minestrone con il Guttalax che si è fatto innato, gli hanno messo le lattici dei pantaloni perché se lo sporcava la macchina, e la fine dei pantaloni, le cabine gli hanno messo gli elastici. E quello era Babasone Giallo insieme con Coso, con Salvino Lollo, il cugino di Adriano, perché l'aveva fatto bisticciare con la moglie Paoletto a Salvino. idea, però vedi, la schiuma di carnevale è acqua praticamente, più innocuo, però quello di dargli un farmaco e fargli venire una diarrea proprio dilagante, lo sai che gli può venire anche una cosa intestinale, cioè una cosa un po' seria. Quelle sono più cattive, come scherzi, chiamiamoli scherzi. E gli hanno fatto mangiare le tartine, gli hanno fatto mangiare al Buttarac. Con lui gli andava a entrare la cabina. Perché non è... Cappello che ci aveva, le porte sono andate indietro. Lui mi dava indietro. E a chi l'avremmo chiuso ombre da messicano? È la notte del fantasma, dice qualcuno, credo che sia uscito tipo con un lenzuolo bianco di notte, inizia a correre Paoletto, dice che gli toccavano i talloni col sedere da quanto stava correndo. Quello era stato in picco, l'appuntamento del Valolatte, erano in tanti, però erano due o tre, si sono vestiti da fantasmi con i lenzuoli, come Paoletto è arrivato all'appuntamento, sono usciti loro. Perché sei molto acuti come ti un però vedi un altro come è arrivato lui, sono usciti fuori. Poi sì, c'è qualcuno gli volesse dare schiaffi o l'avesse fatta, cioè cose incredibili, conta che era una persona malata, quindi magari come non sarebbe possibile oggi fare a lui quello che gli hanno fatto, nemmeno lui poteva fare quello che faceva con sti ragazzini a 13 anni, subito toccati i peli, ma sei peloso, fammi sentire i peli. Solo che diverso, lui era una persona che non era capace di andare di volere, mentre invece certe persone, diciamo che lo sfottevano pur sapendo che era malato, lo facevano incazzare, poveraccio. A me faceva un po' di pena, ti dico la verità. No, già, in realtà era capace come di intendere volere, ti dico perché. Allora, quando è morto il padre, no? Posso? Vai. Quando è morto il padre c'è stata la divisione, l'eredità, no? Di tutti i fratelli e la madre anche, no? I fratelli speravano di poterlo estromettere facendolo risultare incapace di intendere. Invece il giudice o quello che l'ha esaminato, o il medico già capito, l'ha ritenuto capace di intendere volere, però naturalmente i soldi dovevano essere comunque amministrati, in questo caso credo dal fratello, da un procuratore, comunque, però è stato ritenuto capace di intendere volere, cioè non era a tal punto da non capire la differenza tra il bene e il male, già capito già. Infatti stavano crepando i fratelli perché speravano di togliergli tutto quello che gli potevano togliere, come ha detto una cugina a me. Sì, vabbè, ma già era incapace, dai, cosa poteva... Falcone non capiva un tubo, non capiva cosa potevano interdirlo anche per il suo bene, nel senso che i soldi li dovevano amministrare un qualcuno che non li faceva finire male, perché se li mettevi in mano a lui, guai. Allora, avete parlato in due, è passato Natalino, Gianni adesso ripete, volevo aggiungere solo che sì, Paoletto gli hanno messo l'amministratore per la sua parte, perché se no lui avrebbe regalato soldi a tutti, avrebbe regalato baracchini a tutti, capito? E vai già, ripeti. Stavo dicendo appunto quello, diciamo che ci vuole uno che gli amministri i soldi, di solito nominano dal tribunale un avvocato che amministra tutto, solo che anche gli avvocati ci sono quelli onesti e quelli disonesti. Però vedi, non è che fosse incapace, certo. Da quella storia della nascita, il forcipe, lo diceva lui stesso, e mi ha detto, l'hanno stretto troppo e il danno è stato quello. Ma anch'io sono nato col forcipe, adesso vuoi diventare domani. Ma lì hanno stretto troppo, magari sai, non riusciva, era magari grande il neonato, allora tirano, stringono e lì poco ci manca a far danno. Poi questa è la versione ufficiale detta anche da lui. A me mi hanno rovinato il braccio, mi hanno fatto avere una parigi ostetrica, comunque, Marco lo so che diventa, mi hanno tirato più il braccio. Ma avevi detto che avevi fatto operoterapia, mi pare tua madre si era occupata di seguirti. Poi a Natalino invece credevano fosse il codice, ma a Natalino credevano fosse il cordone ombelicale, l'hanno tagliato e non era il cordone ombelicale. Ma me ne è rimasto un bel pezzo, se vuoi te lo metto in mano e te lo faccio vedere. Non è che l'hanno tagliato tutto, no? Me l'aspettavo. E allora, se tu dici queste cose, io rispondo a tono. E l'intento era quello, appunto.